Well, I walked down to the corner to get a soda pop. Jukebox a playing, lots of Bobby socks. I heard a chick a saying when the music stopped, rock me, daddy, oh, daddy, oh, rock. I say, rock, rock, rock me, daddy, oh, rock, rock, rock me, daddy, oh, rock, rock, rock me, daddy, oh, rock, rock, rock me, daddy, oh, rock me, daddy, don't stop. I say, rock me, daddy, oh, daddy, oh, rock, rock, rock, rock, rock. Eccoci qua, buonasera a tutti, questa è la prima puntata di Daddy O' Rock, il nuovo programma di Radio Città Fujiko, dedicato alla musica rockabilly e a tutta la cultura anni 40 e 50. Mi presento, io sono Nicolò e insieme ci tufferemo negli albori del rock and roll, ma non solo. Ascolteremo infatti anche tanto swing, boogie, doo-wop e rhythm and blues, quella musica insomma che ha sconvolto generazioni intere, ha sconvolto l'industria discografica negli anni 50 e anche le radio, e che continua ancora oggi appunto ad affascinare band anche molto giovani che però riproducono fedelmente tutte quelle sonorità. Ma direi che è meglio iniziare subito, e dalle note di Daddy O' Rock di Jeff Daniels che ci accompagnano in sottofondo passiamo ad un brano di genere hillbilly bop. Che cos'è l'hillbilly bop? L'hillbilly bop è una sorta di mix tra la musica country e le sonorità più boogie, quindi un country molto più veloce che è, possiamo dire, l'antesignano del rockabilly. Il brano che ho scelto si chiama Catty Town, è un brano scritto da Dick Glasser ma eseguito da Pee Wee King. Pee Wee King, un cantante country del Wisconsin, noto tra l'altro per essere anche il coautore di un brano famosissimo dal titolo The Tennessee Waltz, fatto successivamente come cover anche da Elvis Presley. E come tanti altri cantanti country, anche Pee Wee King in quegli anni decise di ravvivare appunto le proprie sonorità country semplicemente velocizzandole e aggiungendo anche un pizzico di boogie. Fu così appunto che nacque rockabilly. E allora noi ascoltiamo questo vero e proprio classico, Pee Wee King, Catty Town. My head was in a spin. I called up my baby to find out where I've been. I said, honey, honey, my head's a blank. It feels like I've been hit by a tank. I must have been way down in Catty Town. Oh, oh, oh, oh, way down, way down in Catty Town. Well, you go out 14 to 229. You turn to the left till you see the sign. The sign says only 4 more miles to go. Down where the cats really wail and blow. Way down in Catty Town. Oh, oh, oh, oh, oh, way down in Catty Town. Right out of the bottle, they jump in the rods and they pull out the throttle. The driver says, honey, let's put the top down. She said, never mind the top, get to Catty Town. Way down in Catty Town. Oh, oh, oh, oh, way down in Catty Town. Take your honey and you don't know where to go. Where the music is hot and the lights are low. There's only one place that you will find. Well, it's a hopped up shack off 229. Way down in Catty Town. Oh, oh, oh, oh, way down in Catty Town. Catty Town, brano Hillbilly. Tra l'altro Hillbilly non è propriamente un complimento, perché con il Billy si intendono tuttora i montanari o i campagnoli. Noi rimaniamo però nel 1956, il rock and roll è ormai esploso in tutta la sua potenza, entusiasmando ordi di ragazzi, scandalizzando ovviamente i loro genitori bacchettoni, ma volenti o nolenti cambiando per sempre la storia della musica. In quell'anno in radio uscirono decine di canzoni che ancora oggi sprigionano una energia incredibile. Tra queste ne ho scelta una di Bill Haley and his Comets, Bill Haley e le sue comete, non così famosa come il suo classico Rock Around the Clock, uscito l'anno precedente nel 1955, ma che incarna comunque tutta quella carica che il rock and roll e il boogie mischiati insieme creano. Si tratta di Hot Dog Buddy Buddy, brano scritto per il film Don't Knock the Rock, una sorta di musicarello americano, e che uscì anche come singolo per la Decca Records, tratto dall'album Rock and Roll Stage Show. E allora lasciamo spazio alla musica e ascoltiamoci Bill Haley con il suo ciuffo, la sua giacca di satin e il collo vellutato e la sua Hot Dog Buddy Buddy. Cold as a codfish, hot as a coal, hot dog buddy, well bless my soul. I'm rocking, rocking on down the line. Hot dog buddy, buddy, hot dog all the time. I got legs like a rooster, eyes like a frog. When I hear music, I holler hot dog. I'm rocking, rocking on down the line. And 14 rides, and I'm rocking, rocking on down the line. Hot dog, buddy, buddy, a hot dog all the time. Danced last night, the night before. Well, let's see tomorrow, going to dance some more. 'Cause I'm rocking, rocking on down the line. Stop now, but I don't think the heart of course I'm rocking, rocking down the line. Hot dog, buddy, buddy, hot dog all the time. Hot dog! Hot dog, buddy, buddy, brano di Bill Haley and his Comets. Bill Haley ci ha veramente regalato tantissimi classici che sicuramente ascolteremo anche in futuro, anche con diverse rarità. Ora invece passiamo ad un altro brano fondamentale nel passaggio dalle sonorità blues country a quelle rockabilly. Mi riferisco in particolare a Mean Mama Blues, un pezzo della tradizione country riproposto in una versione più veloce arrangiata da Marty Robbins, una delle tante versioni di questo pezzo che ovviamente, essendo un brano tradizionale, è stato presentato da tantissimi cantanti. La chitarra acustica, il pianoforte e la voce squillante di Marty Robbins gli sono valsi anche l'ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame. Questa è la sua versione, Mean Mama Blues. Well, when I come home this morning was still too dark to see. I could tell that baby wasn't sleeping next to me. She's gone and left me. Where to, I guess I'll never know. I only know her leaving's brought pain and misery to my soul. Well, a note was on the pillow. She's gone without a doubt. I tried to read her writing, but I couldn't make it out. The tears were falling too fast for me to even read. Nobody knows my sorrow, nobody knows my misery. Can't understand her. What made my baby want to go? I didn't hear her leaving. She didn't even close the door. Well, she come home this morning, I'd jump and shout with glee. She can't mean more to someone else than what she means to me. I love that woman, I got to have her all the time. I got to have her near me to ease this misery on my mind. E sull'arpeggio finale di Mean Mama Blues abbandoniamo per un momento le sonorità rockabilly per occuparci di quello che avveniva su un altro fronte, perché se da un lato il country era la musica dei bianchi evolveva verso il rockabilly, il blues nero stava subendo le sue prime mutazioni ritmiche, come quelle che Larry Williams inventò e inserì nei suoi brani rhythm and blues. Larry Williams, un vero gigante del rhythm and blues, ma anche del rock and roll, perché il suo pianoforte e la sua voce non hanno davvero niente da invidiare a Little Richard o Jerry Lee Lewis. Larry Williams, che tra l'altro incise le sue prime canzoni proprio per Specialty Records, casualmente la stessa casa discografica di Little Richard. E allora noi ci ascoltiamo una sua canzone del 1958 che è stata perfino oggetto di cover da parte dei Beatles. E allora, signore e signori, ecco a voi Slow Down, Larry Williams. Better slow down. Baby, now you're moving. come si può rimanere fermi su un brano simile? Noi non vogliamo rovinare questo incanto e rimaniamo nell'ambito degli albori della musica soul, o meglio su quella sottile linea che unisce vari generi e influenze. Infatti in questo periodo che nascono quartetti, quintetti o addirittura sestetti vocali che propongono lenti romantici ma anche brani più ritmati dal sapore boogie. Il genere in questione si chiama doo-wop, un genere creato appunto da questi quartetti, quintetti, sestetti vocali che con la propria voce e le proprie armonizzazioni cercavano di riprodurre anche strumenti o comunque supplire strumenti musicali come i fiati o la batteria o il basso. Noi andiamo ad ascoltarci un brano che rappresenta molto bene questo genere, un brano che dei Five Keys, un quintetto vocale originario della Virginia che già nel 1951 arrivò al successo in classifica con il brano The Glory of Love. Noi invece andiamo ad ascoltarci un loro brano del 1956, anche questo un brano ovviamente ballabile, un vero classico dal titolo She's the Most. Questo è veramente uno dei miei brani preferiti, straordinarie le armonizzazioni dei Five Keys e anche la melodia di questo brano è veramente bellissima. Ma questa sera non abbiamo ancora ascoltato neanche una voce femminile e allora mi faccio perdonare subito con un brano di Winona Carr, una gentile signorina di Cleveland nell'Ohio, che però quando canta scatena veramente il diavolo che ha dentro. Anche lei ha contribuito a creare quell'ibrido tra gospel, rhythm and blues e boogie che possiamo definire oggi l'albore veramente del rock and roll, ma che ha anche elementi che una decina di anni dopo hanno dato vita al soul. Winona Carr ha una voce davvero straordinaria, è un contralto e c'è un brano che più di ogni altro le rende onore. Noi andiamo ad ascoltarcelo, Till the Well Runs Dry. Water till your well runs dry. I never missed you, baby, till you said goodbye. Try me one more time. Try me one more time. Try me one more time. baby, and you look so fine. All I could say was you used to be mine. I just sighed, cried, just about to lose my mind. Today I saw you, baby, and you look so fine. All I could say was you used to be mine. I just sighed, cried, just about to lose my mind. E sul finale vibrato della voce di Winona Carr torniamo sui binari rockabilly, perché uno dei grandi artisti che hanno contribuito a rendere il rock and roll una cosa seria c'è lui, Jim Vincent. Tra l'altro Jim Vincent fino al 1955 non pensava di fare il cantante a tempo pieno, diciamo. La sua scelta era quella di diventare una personalità nell'ambito della Marina americana. Però in quell'anno proprio lui comprò una Triumph, una moto, e cadendo si ruppe una gamba. La sua carriera nella Marina a quel punto era terminata, ma diciamo che rimase questa sua passione per la Marina quando iniziò a scrivere pezzi e diede il nome alla sua band The Blue Caps. Blue Caps in americano sono appunto i marinai della US Navy. Jim Vincent già nel 1956 scrisse un successo planetario, Bebopalula, e fu perfino denunciato per oscenità per le sue movenze durante una sua esibizione del brano Woman Love. Sappiamo che a Jim Vincent piacevano molto le ragazze e molti dei suoi brani erano dedicati proprio a loro, proprio come quello che ci ascoltiamo adesso, che parla di una ragazza mozzafiato con jeans rossi e una coda di cavallo. Il brano infatti si intitola proprio così, Red Blue Jeans and a Ponytail. Got a crazy little cat that works downtown and cuts an awful lot of capers when I come around. She's off the westbound diesel with the evening mail in a room. Red blue jeans and a pony's tail. She can do more tricks to this heart of mine. The ten little numbers on a long way to find. I know when she holds me, why I get so weak and pale. It's a room. Red blue jeans and a pony's tail. Rock! She's got no rhythm in a ten-piece band. Does a rock and roll to the clapping of your hand. I know why they're watching like a train does the rails. It's a rooney. Red blue jeans and a ponytail. Make cold chills run up and down my spine. I'm making a figure going in the wing of time. She packs a lot of wallop to be so small and frail. It's a rooney. Red blue jeans and a ponytail. Rock again now. I come around, she's off a westbound diesel with the evening mail in a roomy. Red jeans and a pony's tail. She can do more tricks to this heart of mine. The ten little monkeys on a long way to find. I know when she holds me, why I get so weak and pale. It's a roomy. Red jeans and a pony's tail. Rockin' up! She can make cold chills run up and down my spine. Make me feel warm in the pounds and packs an awful lot of wallet to be so small and frail in a red blue jeans and a ponytail. E lasciamo Jim Vincent alle sue pene d'amore per questa ragazza e la sua coda di cavallo e occupiamoci ora di un vero virtuoso della chitarra. Sì, perché dal country arrivavano anche veri e propri virtuosi delle sei corde che si cimentavano nel rockabilly cercando di distinguersi con le loro abilità. Anche questo brano non è esattamente un brano rockabilly, ma è quella miscela di Hillbilly e Boogie che è diciamo l'anello mancante tra il country e il rockabilly. Stiamo parlando di Merle Travis, un abile chitarrista che sviluppò tra l'altro una particolare tecnica del finger picking che prese addirittura il suo nome, il Travis picking. Merle Travis non è forse famosissimo, ma è stato l'autore di un pezzo che divenne famoso qualche anno dopo. Si tratta di 16 Tones e la versione che più è famosa è quella di Tennessee Henry Ford. Noi invece adesso andiamo ad ascoltarci un suo brano dove sono veramente evidenti le sue doti chitarristiche. E allora, se vi ho incuriosito abbastanza, ascoltiamoci Merle's Boogie Woogie. About 12 o'clock, gonna close the door. Can't nobody come or nobody go. I got a boogie woogie feeling. Had it all night long. When I get that feeling, my mama won't let me come home. Big legs, walks like she's walking on soft boiled eggs. I got a boogie woogie feeling, had it all night long. When I get that feeling, my mama won't let me come home. There's two kind of people I just can't stand, a lying woman and a sneaking man. I got a boogie woogie feeling, had it all night long. When I get that feeling, my mama won't let me come home. The rat say to the mouse, I wanna see you down at my house. I got a boogie woogie feeling, had it all night long. When I get that feeling, my mama won't let me come home. Six times six is 36. Ain't it gonna hit but six more licks. I got a boogie woogie feeling. Had it all night long. When I get that feeling, my mama can't keep me home. Impressionante davvero la tecnica di Merle Travis, tecnica che ritroveremo poi in altri virtuosi come Chet Atkins, ma anche il buon vecchio Les Paul, di cui sicuramente vi proporrò qualche brano particolare nelle prossime puntate. Ma ora direi che è arrivato il momento del lento della serata. Si tratta di un brano blues che personalmente trovo veramente incredibile e di un'attualità nelle sonorità davvero sconvolgente. Little Willie John, così si chiama l'artista che andiamo ad ascoltare, con la sua voce poteva davvero fare tutto, anche un blues che graffia il cuore con le urla. You Hurt Me è il grido di un uomo innamorato, o meglio di un ragazzo, perché Little Willie John, quando cantava questa canzone, era quasi un bambino, ma con la voce sentirete la voce di un uomo. Allora non ci resta che ascoltarla. You Hurt Me, Little Willie John. Voi, ma dopo questo blues ho ancora la pelle d'oca. Spero vi sia piaciuta, perché adesso è arrivato il momento di scoprire altre carte. In questa prima puntata non poteva certo mancare lui. Chi direte voi? Non c'è da chiederselo, lui, il re, Elvis Presley. Non ne abbiamo ancora parlato e non potevamo non farlo, ma Elvis nel 1957 era già una star affermata. Tra apparizioni televisive e film il suo successo è già conclamato, e proprio da un film è tratto il brano che adesso andiamo ad ascoltarci. Il film è Jailhouse Rock, rock, tradotto in italiano tra l'altro con il titolo Il delinquente del rock and roll, ma la canzone non è quella omonima. Si tratta di Treat Me Nice, una canzone un po' più lenta di Jailhouse Rock, ma anch'essa abbastanza ritmata. Molti di voi la conosceranno già, ma credo che sia sempre un piacere riascoltarla. Eccola a voi. When I walk through that door, baby, be polite. You gonna make me so. If you don't greet me right, don't you ever kiss me once, kiss me twice. Treat me nice. I know that you've been told it's not fair to tease. So if you come on cold, I'm really gonna freeze. If you don't want me to be cold as ice, treat me nice. Make me feel at home if you really care. Scratch my back and run your pretty fingers through my hair. But you want to be your slave if you ask me to. But if you don't behave, I'll walk right out on you. If you want my love, then take my advice. Reunite. Make me feel at home if you really care. Scratch my back and run your pretty fingers through my hair. No, I'll be your slave if you ask me to. But if you don't behave, I'll walk right out on you. If you want my love, and take my advice. Dream a night. If you really want my loving, treat me nice. Lo stile e la voce inconfondibile di Elvis si riconoscono anche in un lento come questo, Treat Me Nice. Ma noi non ci fermiamo, anzi continuiamo nel nostro viaggio, e questa volta andiamo un po' indietro nel tempo, e più precisamente nel 1946. Siamo nel pieno del periodo in cui facevano furore le big band e ci spingiamo fino a questo anno per riscoprire sonorità decisamente più swing. Il brano che ho scelto è Hey Bubba Rebop di Lionel Hampton, ma nella versione di Tex Beneke. Tex era un sassofonista, cantante e direttore d'orchestra, ed è sua anche parte del successo di brani famosi come Chattanooga Choo Choo e In the Mood, portata poi a successo dal grande Glenn Miller. Già dal titolo, Hey Bubba Rebop è un pezzo che trasuda swing. Il titolo, come avete sentito, molto onomatopeico, sembra simulare appunto la ritmica dei fiati, e la versione, questa versione di Tex Beneke è sicuramente più energica di quella di Lionel Hampton. Ci sono forse più dettagli jazz che rendono sicuramente il brano più veloce e ancora più adatto a ballare. Allora largo allo swing con Tex Beneke e i Bubba Rebop. Yes, my baby knows. Matilda Brown told old King Tut, say if you can't say rebuff, just keep your big mouth shut, shouting hey, Bob Reba. Hey, Bob Reba. Hey, Bob Reba. Hey, Bob Reba. Hey, Bob Reba. Yes, your baby knows. Mama's on the chair, Papa's on the cot, baby's on the floor, blowing his natural top, saying, hey, Baba Reba. Hey, Baba Reba. Mm-hmm. Hey, Baba Reba. Hey, Baba Reba. Hey, Baba Reba. Hey, Baba Reba. Yes, my baby knows. Can be looking for the cat that took my baby from me, shouting, hey, Baba Reba, mm-hmm, hey, Baba Reba, hey, Baba Reba. Yes, my baby knows. Now you've heard this song from start to end. Now dig the title once again, baby. Hey, Baba Reba. Siete sempre all'ascolto di Daddy Rock e questo era lo swing di Tex Binnicki che ci introduce alla rubrica dei concerti della settimana. Sabato prossimo, sabato 17 ottobre, inizia anche quest'anno la rassegna Shake, Rattle and Roll organizzata al Locomotive Club di Bologna. Ogni anno la rassegna ci regala veramente dei concerti bellissimi, nomi del rock and roll internazionale, ma non solo, anche del blues e tanto altro. Quest'anno inizierà appunto sabato prossimo e si inizia col botto, perché il primo nome è Pokey Lafarge, un cantante dell'Illinois che porta avanti la tradizione del country e del folk americano delle origini, mischiandolo con del Dixieland, del blues e anche dello swing. Pokey Lafarge ha già all'attivo 6 album. L'anno scorso, anzi 2 anni fa, nel 2013, è uscito un suo album omonimo sotto Third Man Records, la casa discografica di Jack White, e quest'anno invece esce il suo nuovo album che si intitola Something in the Water. E proprio da quest'album noi andiamo ad ascoltarci un brano che riassume perfettamente lo stile di Pokey Lafarge e di tutta la tradizione del folk americano. Eccolo a voi, Acting a Fool. Can be found. If I end up drinking everything in the room, I'm just acting a fool for getting you. Acting a fool for getting you. Look over the horizon, what do you see? Another sun is setting on me. Last rays of sunlight taking my sanity. So if you see me howling, howling at the moon, I'm just acting a fool for getting. then I won't sing again. I drink myself green, don't mind that money I spend. You were the last thing I had left to lose. I'll be acting a fool for getting you. Acting a fool for getting you. Questo era Pochi Lafarge, che tra l'altro ricordo si esibirà sabato prossimo, sabato 17 ottobre al Locomotive di Bologna. Tra l'altro avrà di supporto anche un altro cantante folk americano che si chiama Jake Labotz. Quindi se amate il folk americano ma anche il rock and roll e tutto quel sound vintage, vi consiglio di non perdere questo concerto. Noi invece ritorniamo nel 1956, perché in questa prima puntata, oltre a Elvis, non poteva mancare un altro grande del rock and roll, con la sua voce graffiante e il suo pianoforte indiavolato. Forse avrete già capito di chi sto parlando, si tratta di Little Richard. La canzone che ho scelto è Slipping and Sliding, scritta da Little Richard insieme a Eddie Bo, noto pianista e cantante di scuola jazz di New Orleans, che la incise nel 1956 con il titolo I'm Wise. Little Richard invece la riarrangiò sempre nello stesso anno e uscì come B-side del singolo Long Tom Sally. È un brano davvero potente, come sentirete, che fonde rock and roll e rhythm and blues, e piacque anche molto a John Lennon, che ne fece una cover. Quindi non ci rimane che ascoltarlo, eccolo a voi, Slipping and Sliding. Been told, baby, you've been told. e lasciamo sfumare le note di Slippin' and Sliding di Little Richard e passiamo a un'altra leggenda della musica rockabilly. Parliamo di Carl Perkins, un giovane ragazzo del Tennessee che già all'inizio degli anni 50 suonava insieme ai suoi fratelli, i Perkin Brothers, una miscela di country e blues che poteva definirsi rockabilly. Un giorno Carl Perkins nel 1954, ascoltando la radio, sentì un giovane che faceva la sua stessa musica. Quel giovane era Elvis Presley, e allora Carl Perkins decise che se ce l'aveva fatta Elvis poteva farcela anche lui, fece le valigie e andò a Memphis. Andò a bussare alla Sun Records, Sam Phillips si accorse del suo talento e lo scritturò. Tutto il resto è storia. Carl Perkins scrisse successi planetari come Blue Suede Shoes, Honey Don't e tanti altri, ma scrisse anche un brano che ci ascoltiamo adesso e che si intitola Boppin' the Blues. Well, all my friends are boppin' the blues, it must be going round. All my friends are boppin' the blues, it must be going round. I love you, baby, but I must be rhythm bound. Well, the doctor told me, Carl, you don't need no pills. Hey, the doctor told me, boy, you don't need no pills. Just a handful of nickels, a jukebox will cure your ill. Well, all my friends are bopping the blues, must be going round. All them cats is bopping the blues, must be going round. I love you, baby, I must be rhythm bound. Well, the old cat bug bit me, man, I don't feel no pain. Yeah, that jitterbug caught me, man, I don't feel no pain. I still love you, baby, but I'll never be the same. I said, all my friends are bopping the blues, it must be going round. All my friends are bopping the blues, it must be going round. I love you, baby, but I must be rhythm bound. Get it, cat, let's go. Con Carl Perkins e la sua Boppin' the Blues siamo arrivati ormai quasi al termine di questa puntata, ma c'è ancora tempo per un'ultima canzone, un grande classico di un'altra leggenda, tra l'altro ancora vivente, perché Chuck Berry continua alla veneranda età di 88 anni a fare concerti in giro per il mondo, anche se ovviamente con le chiare difficoltà legate all'età. La canzone in questione si intitola Carol, è un singolo del 1958 uscito per Chess Records, questa leggendaria casa discografica di Chicago che sfornò artisti come Muddy Waters, Howlin' Wolf, Bo Diddley Tra l'altro è stato anche girato un film sulla storia di questa casa discografica dal titolo Cadillac Records, con Adrien Brody nei panni del produttore Leonard Chess e il rapper Mos Def nei panni di Chuck Berry. Il film è molto bello, se non l'avete ancora visto vi consiglio caldamente di vederlo, ma noi torniamo alla nostra musica e torniamo a parlare della canzone Carol, che uscì nel primo album compilation di Chuck Berry dal titolo Chuck Berry is on the top. E allora io vi saluto, vi do appuntamento a sabato prossimo per un'altra puntata di Dead Your Rock, sempre alle ore 20, sempre sulle frequenze di Radio Città Fujiko. E allora Chuck Berry, Carol. Takes your hat and you